conoscere questa sentenza che già in realtà nei giorni scorsi era stata filtrata anche ai mezzi di comunicazione per sondare un po' quale sarebbe stata la reazione, il che già dice molto su quello che sta accadendo in questo paese. Dicevo, la sentenza di oggi è stata proprio una bomba atomica, è un totale di quasi 100 anni di carcere per 9 dei 12 imputati, per 3 invece quelli che non erano in carcere preventiva ci sono solo delle condanne, il divieto di accedere ai pubblici uffici per pochi anni. La sentenza è molto dura, nonostante il fatto che l'accusa di ribellione non è stata mantenuta, perché era davvero complicato sostenere che ci fosse stata una ribellione, c'è sostanzialmente un colpo di Stato, quindi non c'è stato nessun colpo di Stato, ma è anche molto difficile sostenere che ci sia stata una sedizione. Ma chi aveva pensato in una sentenza che sarebbe stata un pochino più accondiscendente, che avrebbe abbassato un po' la tensione, naturalmente è stato smentito, perché le sentenze sono comunque molto molto severe, benché ci sia una piccolissima concessione per cui sostanzialmente si lascia aperta la porta, la possibilità che ci possa essere un regime carcerario praticamente a partire da subito, sostanziale semilibertà in cui si potrebbe uscire tutti i giorni, ma certamente comunque la sostanza della condanna rimane. Infatti le reazioni sono state immediate, ci sono sia manifestazioni in piazza, adesso c'è un tentativo di bloccare l'aeroporto, sono state bloccate strade, autostrade, stazioni eccetera, e poi anche ci sono state delle reazioni istituzionali da una parte del governo catalano, che sostanzialmente, come già era atteso, naturalmente si è posizionato contro queste condanne, anzi ha cercato il presidente Quintor di mantenere un tono duro e anche molto di confronto con le autorità spagnole, ma cercando di non superare quei limiti che avrebbe dato la scusa, soprattutto adesso in tempo preelettorale, ai partiti principali, tra cui anche il Partito Socialista, che si è distinto per essersi allineato completamente alle posizioni della destra più estrema, e avrebbe dato appunto loro la scusa di invocare nuovamente il 155, cioè l'articolo che mette sotto controllo l'autonomia catalana. Quindi da una parte il governo catalano, ma dall'altra anche il governo spagnolo, Pedro Sánchez, con un discorso particolarmente duro e particolarmente poco, secondo me, intelligente politicamente, ha esplicitamente detto che la condanna deve essere compiuta integralmente, perché naturalmente uno dei temi di cui si parla un po' sottovoce ormai da molti mesi, ricordiamo che tutti questi leader sono in carcere da 2 anni in carcere preventivo, la possibilità di indulto, cioè sostanzialmente che il governo con un atto autonomo potesse perdonare le condanne, non cancellarle ma diciamo perdonarle, il che non implicherebbe, per le modalità con cui questo può avvenire, che i leader indipendentisti debbano chiedere, diciamo così, perdono, ma potrebbe essere un atto unilaterale da parte del governo, che già era stato escluso nei giorni passati, ma naturalmente adesso in clima preelettorale, con questo discorso molto duro da parte del presidente del governo Sánchez, sembra essere stato escluso, anche se ci sono delle voci un pochino meno rigide anche dentro gli stessi socialisti, tra cui per esempio il segretario dei socialisti catalani Miquel Iceta, che fra le righe, anche specialmente nel passato, invece ha chiesto questa soluzione, l'ha chiesta sostanzialmente, anche se non in questi termini, ma di fatto tutti i partiti di sinistra, Podemos, Izquierda Unida, la stessa Ada Colau ha dato un discorso, anche lei una dichiarazione istituzionale stamattina, in cui, parlando di grande ingiustizia, ha sottolineato non solo l'importanza di riaprire un dialogo, di prendere in mano la responsabilità come esponenti pubblici, ma anche ha chiesto, diciamo, di percorrere qualsiasi strada necessaria per sostanzialmente restituire la libertà a queste persone, e con questo naturalmente abbassare la tensione che è al massimo. Se si procedesse con la linea dura, dovremmo aspettarci un crescere ulteriore delle tensioni e arrivare a un punto come quello di 2 anni fa? Non è chiarissimo cosa succederà, perché ricordiamo che oltre alla bomba politica della Catalogna per la Spagna, che comunque questa sentenza rappresenta in qualsiasi circostanza, ricordiamo che tra un mese ci sono di nuovo le elezioni politiche in Spagna, e probabilmente presto ci saranno anche in Catalogna, perché la sentenza scatenerà le tensioni che già c'erano fra gli alleati di governo, che formalmente insomma sono entrambi indipendentisti e che fondamentalmente o pubblicamente hanno le stesse posizioni, ma in realtà si sa che hanno delle strategie che ormai sono piuttosto divergenti, quindi probabilmente esploderanno queste tensioni anche qui, quindi saranno elezioni anticipate anche qui. qui in Catalogna nei prossimi mesi, però le strade sono diverse. Da una parte c'è una strada giudiziaria, perché in realtà l'obiettivo degli avvocati difensori e anche degli stessi imputati è quello di arrivare all'Europa, perché una volta questa è una sentenza definitiva, si può fare, ci sono due passi ancora, diciamo, nell'ambito della giurisdizione spagnola che possono essere fatti: uno, chiedere la nullità del giudizio per aver vulnerato i diritti degli imputati, che naturalmente il Tribunale Supremo respingerà, anche se, apro una parentesi che secondo me è interessante, la sentenza è così poco tecnicamente ben scritta che ci sono degli errori abbastanza evidenti, tecnici, per esempio, che vengono attribuite delle responsabilità politiche a alcuni degli imputati che sono sbagliati. Dolors Bassa, nella sentenza c'è scritto che era la ministra dell'istruzione, invece la ministra degli affari sociali. C'è scritto che è stato dimostrato che lei abbia dato l'ordine alle scuole di aprire per effettuare il referendum, quando invece non è vero, questo l'ha fatto un'altra ministra, che è Clara Ponsatì, che adesso in Scozia è una delle persone che sono scappate, e quindi sembrano, diciamo, delle ragioni sufficienti per mettere, come dire, in dubbio una sentenza in cui ci sono degli errori tecnici anche così semplici da scoprire. Comunque, chiusa parentesi, quindi il primo passo che possono fare gli avvocati è questo di chiedere la nullità e quindi ripetere sostanzialmente tutto il processo, ma questo sicuramente non porterà da nessuna parte. Dopodiché possono chiedere al Tribunale Costituzionale di esprimersi in merito. Anche lì il Tribunale Costituzionale, come ben sappiamo, in Spagna è molto ben collegato ai partiti politici principali, il Partito Popolare e il Partito Socialista, quindi naturalmente non ci sarà nessun margine di correzione della sentenza dentro l'ambito giuridico spagnolo, e quindi il passo successivo è quello invece di arrivare al Tribunale dei diritti umani in Europa, che è proprio dove gli imputati sperano di avere una vittoria giuridica che metta sulle corde, inchiodi la giustizia spagnola alle proprie responsabilità.